La rosa purpurea di Franco D'Assisti. Ben ritrovati alla Rosa Purpurea, amici, un saluto da Franco D'Assisti. Questa è la nostra ora di cinema qui su Radio 24, come tutti i fine settimana, tutti i sabati, tutte le domeniche, in onda per raccontarvi tutto il cinema che c'è. E ce n'è tanto questa settimana, davvero tanto. 8 nuove pellicole arrivano nelle sale cinematografiche italiane nel penultimo weekend prima della notte degli Oscar, e con qualche titolo importante, ma per una volta con il cinema italiano che gala, la perla più raffinata di questo weekend. Ne parliamo fra poco, cominciamo subito a entrare nel clima della trasmissione con i nostri titoli di testa. Quanto costa il nostro benessere? Quanto pesa sul pianeta la nostra sete di ricchezza? E quanto siamo disposti a sacrificare pur di raggiungerla? Sono i temi di Promised Land, il nuovo film sul conflitto economia-ambiente firmato da Gus Van Sant, con Matt Damon e Frances McDormand. Essere adolescenti, ieri come oggi. 1991, un ragazzo del primo anno di liceo fa amicizia con un gruppo di eccentrici dell'ultimo anno. Sarà un percorso di crescita e di ricerca dentro se stessi. Convince Noi siamo infinito, esordio alla regia di Stephen Schabowski, autore anche del libro da cui il film è tratto, con tre giovani star, Logan Lerman, Emma Watson e Ezra Miller. Da povero a principe, da scroccone a uomo di mondo. È la parabola de Il principe abusivo, esordio alla regia di Alessandro Siani, che ne è anche il protagonista. Un po' Conte Max, il giovane squattrinato conquisterà il cuore di una principessa in calo di popolarità grazie anche ai consigli del ciambellano Christian De Sica. E se il sosia di un importante uomo politico cambiasse le sorti di un intero paese? È quel che accade in Viva la Libertà, favola politica di Roberto Andò con uno straordinario Tony Servillo nei panni del segretario in crisi del principale partito di opposizione e di suo fratello, ex internato, che ne prenderà il posto in incognito. Sorpresa italiana dell'anno. E allora, questi sono i titoli, questi sono i contenuti della puntata, sono solo le cose più importanti, diciamo, almeno più appariscenti di questo weekend. Cominciamo subito con Viva la Libertà. Come avete sentito dai titoli, ci siamo un po' schierati, parlando di sorpresa italiana dell'anno, ma insomma, personalmente ne sono abbastanza convinto. È uno dei film italiani, il film italiano che, partendo dai presupposti, più ha sorpreso, più ha convinto, nonostante, a dispetto, malgrado il tema difficile da trattare al cinema, la politica al cinema o si ha una mano d'oro o altrimenti diventa spesso grottesco, diventa spesso commediaccia, diventa spesso cronacaccia, diventa spesso cinema che racconta invece che cinema che interpreta. E in questo caso invece tutto questo non è successo. Stiamo parlando appunto del nuovo film di Roberto Andò, interpretato, anzi biinterpretato, da Tony Servillo, ma anche da Valerio Mastandrea, da Valeria Bruni Tedeschi, Michela Cescona, da Anna Bonaiuto, un cast di attori davvero formidabili, e che è quanto mai perfetto in questa fase che il paese sta vivendo, che la politica italiana sta vivendo, è quella di del grande dubbio che attanaglia un uomo politico. Enrico Olivieri, uomo di sinistra, segretario del principale partito d'opposizione, che non viene mai definito ovviamente in termini squisitamente cronachistici e politici legati alle sigle che campeggiano nella politica italiana. Ebbene, Enrico Olivieri è un uomo in crisi. È un uomo in crisi perché i sondaggi lo danno in calo, perché è un po' stufo di una politica dove sembra affermarsi sempre chi grida di più, perché è messo sotto accusa e contestato duramente durante un congresso del partito. Insomma, a un certo punto Enrico Olivieri decide di scappare, di fuggire. Enrico Olivieri, interpretato da Tony Servillo, chiamiamolo così, di scappare, di fuggire, di andare in Francia, dove lo accoglie una ex amante, un amante di un'estate, si rifugia di fatto in questa casa e lascia nello sbigottimento tutto un mondo, anche dei media, dell'informazione, che a un certo punto lo vede sparire, un po' come succedeva a Michel Piccoli, ricordate, non ancora papa o pressoché papa, e pensate come è stato anche Nanni Moretti, come sia stato profeta, insomma, in quel film. Ebbene, anche qui, in questo caso, la scomparsa di Enrico Olivieri è una mina per un'informazione che a un certo punto non sa più che pesci pigliare, né il partito riesce a dare qualche soddisfazione a questo popolo di giornalisti affamati. Mi dispiace, sono piombato qua all'improvviso, devo averti messo in imbarazzo. Io ho bisogno soltanto di un po' di tempo per respirare. Sì, sì. Dimmi la verità, tu pensi che sto sbagliando? Sì, penso che stai scappando. Ti stai facendo un errore. No, io non sto scappando. Io sono perfettamente consapevole delle conseguenze che si scateneranno a Roma. È proprio quello che voglio. Voglio vedere questi stronzi che cosa faranno senza di me. Il coniglio dal cilindro lo tira fuori Andrea Bottini, il capo ufficio stampa, il braccio destro di Enrico Olivieri, interpretato da Valerio Mastandrea, che, dato il perdurare e l'assenza di notizie da parte del segretario, decide di puntare tutto su suo fratello. Ebbene sì, Enrico Olivieri ha un fratello che è stato in un ospedale psichiatrico, che ne è uscito recentemente, è un filosofo, un professore di filosofia, scritto libri anche brillanti per l'epoca, e allora perché non andare a trovarlo e fargli la famosa proposta indecente? Per un po' di tempo trasformarsi in Enrico Olivieri, trasformarsi nel segretario del partito. Tanto nessuno, pensa a Bottini, se ne accorgerà, e in effetti le cose andranno così. Le spiace se scambiamo due battute, magari una breve intervista? Ovviamente prima di pubblicarla gliela farò rileggere. Prego. Grazie. I suoi elettori non hanno molti motivi per allegrarsi. Ho letto delle critiche piuttosto dure. I miei elettori fanno bene a stancarsi di me. Anch'io del resto mi stanco spesso di loro. Beh, se i politici sono mediocri è perché i loro elettori sono mediocri. E se sono ladri è perché i loro elettori sono ladri. Oppure vorrebbero esserlo. C'è sempre qualcosa da scovare nel passato di un potente. E c'è sempre un potente che al momento giusto può essere inchiodato. È la paura la musica della democrazia. E così, a colpi di filosofia, di massime, di buonsenso, che ha un effetto sul pubblico rivitalizzante, il partito ricomincia a salire nei sondaggi, e questa nuova figura di quello che tutti pensano essere il vero segretario, ma in realtà non lo è, a fare e a mietere successi. Chiaramente arriverà un regolamento di conti, chiamiamolo così, anche con il proprio passato, da parte dei due fratelli. È un film, come dicevo prima, sorprendente, certo, ma anche molto molto ben riuscito, molto strutturato, una ottima sceneggiatura, tripartita, divisa in tre parti che sostengono la narrazione: una prima parte che è quella della crisi del segretario, una seconda che è quella della, diciamo così, del boom anche mediatico da parte del suo sosia, e poi una conclusione. Grandissimi attori, abbiamo detto, anche nei ruoli di contorno: Valeria Bruni Tedeschi, Valerio Mastandrea, Anna Bonaiuto. Un film che lascia il sorriso amaro sulla bocca, ma che racconta quanto bisogno ci sia nel nostro paese, sicuramente, forse non solo nel nostro paese, di una politica che sappia regalare una prospettiva, che sappia regalare un sogno, che non guardi solo ai numeri, alle cifre, alle aride realtà del bilancio, ma che sappia ancora far appassionare, sappia ancora far sognare. Come promesso, stiamo per sentire Roberto Andò, regista di Viva la Libertà. Prima però abbiamo raccolto un piccolo aneddoto che ha raccontato proprio sulla questione del doppio, del sosia, molto molto divertente, che ha raccontato Tony Servillo in conferenza stampa e che lo riguarda personalmente. Questo mi ricorda un po' me e mio fratello, con cui adesso recitiamo insieme Edoardo De Filippo in questa stagione. Siccome mia madre aveva una predilizione per me, io mi alzavo alle 5 del mattino per andare all'università, lei svegliava mio fratello alle 4 domandando: andandogli, Tonina, che ora si addasciata? E mio fratello la guardava e diceva: ma che boh. Beh, insomma, davvero non male come trattamento, ma questo ci dice che Tony Servillo a che fare col doppio ce ne aveva già avuto, insomma, durante la sua gioventù. È stata una grandissima performance, verrebbe da dire ancora una volta, ma a mio modo di vedere soprattutto stavolta, da parte di Tony. Noi ne chiediamo conferma a Roberto Andò, che è in collegamento con noi. Ciao Roberto. Ciao, buongiorno. Ben ritrovato qui alla Rosa Purpurea, e ancora complimenti per il film. Dicevamo, Tony Servillo doppio. Ora, Tony Servillo ci ha abituato a performance straordinarie, però in questi due panni così diversi e che sanno giocare così bene tra di loro, è stato davvero enorme come interpretazione. Allora ti chiedo, come hai lavorato tu con lui a questa duplicità, cioè a ottenere questi due caratteri così diversi e anche così complementari, tanto da spacciarsi per un uomo solo nello stesso film? Ma sai, con i grandi attori si lavora benissimo, perché in generale le esperienze che ho avuto con degli attori così di fuori classe è sempre di un'intesa che si svolge sul piano, come dire, così semplice, però allo stesso tempo molto profondo. Io non avrei fatto questo film, come ho detto, se non ci fosse stata l'adesione di Tony, perché l'avevo in mente mentre scrivevo, e penso che lui abbia una prerogativa che non tutti gli attori hanno, cioè di rendere concrete le fantasie più ardite. E in questo caso si è trattato soprattutto, ecco, quello che ho ritrovato, e avendo io cominciato a lavorare con Francesco Rosi come assistente, e in quell'occasione avendo conosciuto Gian Maria Volontè, con cui mi sono legato di grande amicizia, ho ritrovato quello stesso, questa capacità di concentrazione, di un fervore creativo che si svolge nella concentrazione assoluta, un artigianato che si prepara con grande solidità. Non è certamente uno che improvvisa, Tony, è uno che studia il personaggio in un modo geometrico, e però qui, come avete detto, rivela, proprio perché il personaggio gli dà le occasioni, delle zone che forse non aveva mai rivelato, e vuoi perché questo personaggio di Hernani è un personaggio che ha un'umanità sorprendente, e tutta giocata sull'empatia, e vuoi perché l'altro personaggio a sua volta è nella sua zona d'ombra, un personaggio che per sottrazione diventa molto stimolante per un attore, e alla fine la competizione tra i due è molto, come dire, tutta da vedere, insomma. Ecco, Roberto, un film, al di là delle vicende proprio che coinvolgono i personaggi, e c'è chiaramente un piano di lettura proprio tutto di trama, anche di storia, dove sarà andato questo, che fine farà, eccetera, eccetera. Però mi sembra di poterci tirare fuori un'altra matrice forte. Dicevo prima, ci dice soprattutto del bisogno estremamente urgente di passione e di anche di dare una prospettiva di speranza che l'Italia ha rispetto ai suoi politici di qualsiasi segno esso siano. Cioè, questo è un film che ci racconta come raccontare che ci può essere un paese diverso, ci può essere un paese fatto in un certo modo, disegnato. Mi viene in mente il discorso che ha fatto sullo Stato dell'Unione Obama qualche giorno fa, dove ha parlato di asili nido gratuiti, ha parlato della fine della guerra in Afghanistan, ha dato cose che poi qualcuno ha bollato, e magari avrà anche ragione, come impossibili da raggiungere, però ha fatto sognare un paese. Ecco, mi sembra che il tuo film racconti anche questo. Ah sì, guarda, io l'ho scritto, il romanzo l'ho scritto in un periodo che considero, insomma, si respirava in questo paese un'aria di umiliazione, di depressione, e l'ho scritto proprio come molla, cercando di immaginare qualcosa che sulla scena non c'era, e da lì è venuto incontro questo personaggio di Hernani. E la politica è un po' ovunque diventata un luogo di finzioni, e però gli aspetti cruciali con cui ci stiamo scontrando portano, forse hanno portato a archiviare questo periodo della finzione, e certamente si può fare politica, si deve fare politica nel rigore, nella sobrietà, ma c'è anche, come dire, uno slancio che la politica deve ritrovare, che ha, diciamo, nella sua costituzione, e che invece è molto difficile da trovare nelle parole degli uomini politici. E questo è, da questo desiderio è nato questo personaggio, è nata tutta questa storia, che è la storia di un paese che deve ripartire, malato deve ricominciare a riprendere i propri passi, ecco. Senti, Roberto, il tuo è un film pieno di sguardi colti al nostro cinema, alla nostra storia del cinema, alla nostra letteratura, ma anche a Brecht, per dire, a Verdi, a Sciascia. Però voglio, sulle citazioni, vorrei proprio sentire il tuo parere, più che il tuo parere, sentire le tue motivazioni su questo momento in cui da un filmato d'archivio spunta Federico Fellini, che ci tira un monito di quelli che dovremmo tatuarci sull'avambraccio e leggerlo tutti i giorni, e che dimostra quanto Fellini avesse già capito come le cose stavano andando a finire. Sì, perché l'Italia ha sempre avuto questi personaggi straordinari, grandi artisti, perché Fellini è veramente un grande artista, che però ha avuto il destino di passare alla storia, sì, per un essere geniale, visionario, ma anche per un uomo cinico e disinteressato alla cosa pubblica. Non era certamente una sua virtù esplicita. Invece in quella occasione, quella che cito in quel reperto, si è visto come lui avesse capito e intuito che dietro quella vicenda delle interruzioni di spot pubblicitari c'è questa, diciamo, progressivo abbandono di ogni frontiera civiltà della cultura in Italia. E di questo, diciamo, Fellini in quel momento fece un allarme, che era un allarme anche politico. E oggi mi sembrava importante che in un film anomalo, che attraverso anche la leggerezza e cerca di coniugare questo discorso che abbiamo appena fatto, e mi sembrava importante che fosse proprio un profeta di quel tipo, che poi i giovani non conoscono, perché, come sai, non è la memoria in questo paese è assolutamente bandita, esiste un eterno presente. Quindi rivedere il volto di un regista che parla di questo cinema maltrattato, di questo amore che è importante coltivare per la propria storia, perché poi in definitiva dice è come se noi accettassimo di farci prendere a pugni e sputi. Ecco, quello che è successo è che in questi anni noi ci siamo lasciati prendere a pugni e sputi, però le tracce ci sono. Bisogna ricominciare da queste macerie. Grazie Roberto Andò, viva la libertà nei cinema italiani, grazie ancora. Grazie. E allora, esaurita la pagina ampia dedicata al più bel film della settimana, Viva la libertà, andiamo a giocare insieme, prima traccia del game di oggi. Ehi ragazzi, aspettatemi! Wow! Potente! La Rosa Purpurea @radio24.it, c'è in palio il Blu-ray di questo film, se lo indovinate, se ci dite chi siete e dove abitate per provare a riceverlo, ovviamente per il primo del sabato e della domenica che mi risponderanno esattamente, più tardi ci saranno altre due clip. E allora andiamo a raccontare adesso brevemente Il principe abusivo, l'altro film italiano, così chiudiamo la parentesi italiana di questa settimana. Siamo da tutt'altra parte, da tutt'altra zona cinematografica. Alessandro Siani esordisce alla regia dopo i successi di Benvenuti al Nord e di Benvenuti al Sud, dopo essere diventato un comico, diciamo così, di punta. Ci prova dietro la macchina da presa con una storia che è quella di un poveraccio, di uno squattrinato che la sorte mette di fronte alla possibilità di entrare in contatto con una principessa un po' in calo di popolarità, e l'alchimia dovrebbe risultare sulla carta piuttosto scoppiettante. C'era una volta una principessa che faceva sognare il suo popolo. Era la nonna. E questi sono gli articoli su di lei. Questi invece sono gli articoli di mamma. Questo è l'articolo su di me. Per portare oggi una principessa in prima pagina c'è un solo modo. La principessa Letizia deve innamorarsi di un disoccupato povero, ignorante, grezzo e volgare. Dove lo trovo un povero? Lo trova. Ehi, suo peggio Roger! Come vive? A scrocco. Non la prima, la seconda, gira verso l'altro. Bene così, boh, sono arrivato, grazie. Ma visse chi è? Sono il ciambellano di corte, la principessa Letizia vi invita a cena. Ti posso dare un bacio? Ricevi. Io faccio male. No, ve lo voglio dire, vi faccio vedere proprio i canguri a motore. Quelli là proprio fanno... E allora, Siani alle prese con la conquista della principessa. Noi abbiamo in collegamento Boris Sollazzo, che saluto. Ciao Boris, subito ti voglio chiedere se l'operazione esordio alla regia di Siani è davvero riuscita fino in fondo. Sicuramente è riuscita commercialmente, lo dimostrano i primi dati di incasso, e in fondo lo dimostra anche il procedere in sicurezza di Alessandro Siani, che si concentra nelle gag centrali, quelle a corte della principessa Sara Felberbaum, che sono efficaci, abbastanza divertenti, generoso, è troppo generoso chiamarlo film, ma probabilmente mantiene quello che promette, e quindi non si può giudicare male come operazione commerciale. Come operazione cinematografica non pervenuta. Tu sai montare un cavallo? Cioè, se me lo dai già montato è meglio, perché sennò finisco che mi imbroglio con i pezzi. Perché è proprio una commedia romantica per l'esordio dietro la macchina da presa. Alessandro Siani. A parte perché noi napoletani abbiamo una vena romantica, cioè noi abbiamo una vena, facciamo una trasfusione, esce una poesia. E poi perché secondo me, visto che nella prima parte è un personaggio molto sopra le righe, molto esagerato, era bello chiudere nella seconda parte con qualcosa che desse sempre una spinta maggiore comunque al film, cioè proprio alla storia del film, e quindi c'è scattata questa vena romantica. Se tra i due attori c'era anche uno che ha fatto reality, e la Napoli di Garrone insomma era molto diversa. Sì, io ho lavorato con Gaudioso, che in Benvenuti al Sud, che comunque veniva da un film abbastanza importante che era Gomorra, poi con qualche attore che è venuto da lì, però sai che cos'è? Io credo che ogni autore, come Garrone e come tanti altri, devono raccontare quello che pensano, la loro Napoli, la loro idea di fare cinema. Questo è bello, ci dà la libertà in questo momento in cui il cinema diciamo, non vive un momento bellissimo. È bello che ognuno possa dire la sua, magari il pubblico, avendo una vasta scelta, può scegliere dove andare. Però hai l'impressione che Napoli sia tornata un po' al centro dell'attenzione del cinema dopo anni che se l'erano un po' dimenticata? Ma credo di sì, perché diciamo, rivalutare un posto che già ha una bellezza sua naturale diventa più facile, come andare a Parigi e come andare in tante capitali europee. E allora questa era l'intervista di Boris Sollazzo ad Alessandro Siani. Chiudiamo anche la parte dedicata al principe abusivo, entriamo in territorio straniero, entriamo nella terra promessa, The Promised Land di Gus Van Sant, per raccontare anche qui probabilmente il film più interessante fra quelli che arrivano in questa settimana da oltreoceano, una storia che abbiamo definito appunto nei nostri titoli a metà fra l'ecologico e l'economico, perché racconta come l'economia reale contemporanea stia deturpando, rovinando, saccheggiando il territorio, ed è il tema centrale appunto di questo film Promised Land, La Terra Promessa, di Gus Van Sant, con una, come dire, una partecipazione di Matt Damon che non è solo quella del protagonista ma è quella anche del coproduttore, insomma ci ha messo tutto, anima, testa, dentro questo film, e vede al suo fianco una straordinaria Frances McDormand nei panni appunto della protagonista. Sono due venditori sostanzialmente, Steve Butler appunto, Matt Damon e la sua collega interpretata dalla McDormand, due venditori che arrivano in una piccola cittadina che si chiama McKinley, nella Real America, quell'America degli stati agricoli, una cittadina rurale con grossi problemi economici, dove la morsa della crisi si è sentita più che in altre parti, dove famiglie molto dignitose vivono quasi al limite della povertà. Loro sono i venditori della Global, una grossa compagnia che estrae gas dai sottofondo dei terreni, e quindi pensano, e inizialmente hanno anche vita facile per convincere i contadini locali che con una semplice firma potranno avere rendite di 40, 50, 100 mila dollari l'anno per poter estrarre appunto il gas naturale, fino a quando un vecchio diciamo, ma anche molto titolato professore del paesino, non comincia a mettersi di traverso, non comincia a far pensare i suoi concittadini, perché forse tutta questa ricchezza intanto forse varrebbe molto ma molto ma molto di più, e poi in realtà potrebbe portare a un impoverimento di una regione che comunque continua a vivere di agricoltura. C'è il conflitto insomma fra, da una parte, progresso, economia, soldi, ed ecco perché dicevamo nei nostri titoli quanto siete disposti a sacrificare di voi stessi, del vostro stile di vita per il benessere. Possiamo mettere a repentaglio per esempio la nostra salute, per esempio la nostra storia, per esempio le nostre tradizioni, per un fatto di mero benessere, che non è poco, certo, ma forse non è neanche tutto. Insomma, questi sono i temi attorno ai quali si incentra il film, del quale sentiamo una clip. Stamattina leggevo delle trivellazioni in Pennsylvania. Stanton Gas, siete voi? No, io rappresento la Global Cross Power Solutions, ma siamo i parecchi. Ma sarete migliori. Ehi, vuol lavorare per noi? Ancora prima di trivellare, la fase iniziale di sviluppo aumenterà il gettito fiscale cittadino. Vuol dire che in città si riverserà immediatamente un flusso di denaro. Ecco cosa vuol dire per me. L'unico motivo per cui vivo dove vivo è la scuola che frequenta mio figlio. Io voglio che lui abbia tutto. E tutto, per me, parte dall'istruzione. Le locazioni partono da $2,000. Soltanto? Sì. Ma non sono soldi che ti cambiano la vita, però. Sono per Etaro e lei ne ha 20, quindi secondo me qui tanti direbbero che 40.000 dollari sono un gruzzolo niente male, soprattutto senza fare nulla. Insomma, questo è il momento della trattativa, come vedete sembrano avere vita facile. Peraltro sullo scenario, sul set, irrompe anche un altro ulteriore terzo, quarto incomodo, cioè un ambientalista molto giovane, molto deciso e anche molto idealista, almeno così sembra, finché poi invece le storie non cominceranno a rivelarsi per il vero volto che hanno. Boris, poteva essere l'esordio alla regia di Matt Damon, che invece aveva altri impegni e ha lasciato diciamo così il compito dietro la macchina da presa a Gus Van Sant, e comunque, come dire, l'ha lasciato in mani nobili. È un film che magari ha qualche semplicismo di troppo, forse ha qualche idealismo di troppo, però è un film che fa pensare davvero molto a come anche quelle che noi percepiamo spesso come eco-business, ma comunque ci sentiamo dalla parte del giusto, pensiamo al solare, a tutto quello che sono le energie rinnovabili, eccetera, in realtà forse, e questo è il caso specifico che viene raccontato, devono farci pensare un po' di più, perché comunque l'impatto su quello che è la storia del nostro territorio, penso agli enormi uliveti che sono stati estirpati per esempio nel sud dell'Italia per impiantare campi di pannelli solari, che insomma faranno il loro sicuramente meglio che gli idrocarburi, eccetera, però poi dopo ti fai delle bellissime passeggiate in mezzo dei campi di pannelli solari. Ecco, c'è un equilibrio forse ancora tutto da trovare su questo tema. Beh, parla Gus Van Sant, Matt Damon, Promised Land, dello sviluppo insostenibile, se vogliamo possiamo definire questo film ecolonico, perché è ecologico, economico, ma parla anche del colonialismo delle multinazionali, che sono decise ad arrivare ovunque e soprattutto comunque dove vogliono. E Gus Van Sant mi sembra che abbia questa particolarità, che da Milk in poi sia diventato eastwoodiano, probabilmente invecchiando i registi in qualche modo sviluppano la voglia di raccontare più che dei film vere e proprie parabole, e francamente questa parabola, dietro un'apparenza semplicistica almeno ad alcune svolte semplicistiche, racconta invece che cos'è la nostra economia: un'economia senza più regole, un'economia che si gioca a un tavolo truccato, dove gli stessi giocatori sono tutti convinti di essere nel giusto e tutti però giocano con carte truccate, spesso senza neanche saperlo. Ci racconta che cos'è la nostra società, lo fa tra l'altro con degli attori pazzeschi, perché Matt Damon se la cava, ma Frances McDormand è straordinaria, e Paul Holbrook, francamente più invecchia più diventa incredibile, tiene la scena in palestra praticamente da solo. E Promised Land secondo me diventa un film veramente forte, veramente potente, un film bello da vedere, perché intrattiene, perché appassiona, perché ti trascina emotivamente e allo stesso tempo ti fa riflettere su degli aspetti semplici, ma semplici perché sono immediati da vedere se raccontati nella maniera giusta. Certo, quello che esce fuori poi alla fine è abbastanza avvilente. La forza di Van Sant, secondo me, è dimostrare come tutti abbiano torto, ma in fondo tutti abbiano anche ragione. Matt Damon non è tanto un venditore quanto un uomo ferito dalla desertificazione provocata dall'industria della sua città, e quella ricchezza che avrebbe potuto salvare la sua città e che non è arrivata la vorrebbe dare a questo piccolo paesino. E quindi in fondo anche lui, il venditore, ha un cuore. La vita è così, la vita non ha buoni o cattivi, la vita ha i buoni e i cattivi dentro ognuno di noi. E con la filosofia di Boris Sollazzo, che sposiamo in pieno, noi andiamo alla seconda traccia del ben più prosaico DVD Game. 29:30, che c'è chi non c'è sta sotto! Oh, santo cielo! Oh, ferma i motori. Vediamo se Guizzo sa cavarsela in solitaria. La Rosa Purpurea, @radio24.it, di che film si tratta? Per provare a vincere il Blu-ray di questo film, più tardi, l'ultima possibilità. Dalla bellissima colonna sonora di Noi siamo infinito, ancora un film di cui parlare. Non riusciremo a parlare di Die Hard 5 con Bruce Willis, ma è veramente brutto, quindi non vi perdete assolutamente niente, e neanche di Blue Valentine con Ryan Gosling, prima che lo ritroviamo fra pochi giorni in Gang Squad. Lì invece c'è qualcosa di più da salvare, questo Blue Valentine, ve lo dico subito, un film di 3 anni fa, pensate, che finalmente esce in sala e che adesso potrete vedere. Una storia di una coppia lacerata, da un passato che piano piano affiora nel gioco di flashback del film. Strano che sia arrivato solo 3 anni dopo sui nostri schermi. Dicevo, però, la colonna sonora che sentite è quella di Noi siamo infinito, un film molto atteso, un film generazionale, titolo originale The Perks of Being a Wallflower, cioè i benefici di essere sostanzialmente Mr. Cellophane, cioè una cosa Wallflower, carta da parati. Dirige Stephen Schabowski, nel cast almeno 3 delle future stelle del cinema internazionale: Logan Lerman, Emma Watson, Ezra Miller. Nei panni di il primo Logan Lerman, ricorderete Percy Jackson, un ragazzo che arriva al primo anno dell'high school. Dall'altra parte, 2 ragazzi, Emma Watson e suo fratello nel film Ezra Miller, che invece stanno per uscire, sono all'ultimo anno. Si crea un'alchimia perché tutti questi ragazzi sono un po', non so se dei disadattati, ma insomma sono un po' particolari, eccentrici, un po' depressi, hanno passioni strane, insomma loro si autodefiniscono l'isola dei giocattoli difettosi. E allora quest'isola dei giocattoli però mette insieme un'alchimia, e questo fa funzionare non tanto e non solo la loro storia, ma soprattutto il film. Boris, davvero una sorpresa, ed è un film davvero adatto a un pubblico di adolescenti, questo. Assolutamente, a un pubblico di adolescenti, che fossero gli adolescenti nati negli anni 70 o fossero gli adolescenti nati adesso. Il motivo è abbastanza semplice, perché racconta gli outsider, quelli che in America vengono definiti con molto più cinismo i losers. È un film, a mio parere, meraviglioso. È sicuramente il film della settimana, ma probabilmente sarà uno dei film dell'anno. Viene da un libro bellissimo scritto dallo stesso regista, di cui non mi arrischierò a ripetere il nome, che tu hai detto in maniera così mirabile. Il film è meraviglioso perché unisce una sensazione di una generazione che era un po' perduta, un po' no, ma soprattutto una generazione che di outsider ne aveva tanti, perché cominciava a incontrare un mondo diverso e non sempre sapeva raccontarlo, non sempre sapeva rappresentarlo, non sempre sapeva viverlo. E qui questi 3 straordinari attori, cioè sono veramente il futuro, hanno un talento incredibile, si trovano in 3 personaggi eccentrici, diciamo, sono sicuramente 3 personaggi più sensibili degli altri, più creativi degli altri, più forti degli altri, e creano una squadra meravigliosa, ma soprattutto creano vita. E insieme c'è una colonna sonora pazzesca, veramente pazzesca, da David Bowie in poi, insomma, non c'è che scegliere. C'è un modo di raccontare poetico, empatico, simpatico, e poi c'è forse un racconto di come ci si divertiva e di come si amava qualche anno fa. La differenza, credo, tra quella generazione e quelle attuali è la stessa generazione che passa tra quelle compilation che tornano ossessivamente nel film su audiocassetta e l'iPod. Quella generazione doveva scegliere, doveva amare, doveva selezionare, doveva trovare i suoi gruppi preferiti. Adesso nell'iPod vanno 7, 8, 9 mila tracce e quindi si può prendere tutto. Ecco, è un po' il raccontare chi siamo stati noi, come facevamo tappezzeria, e forse che non era così terribile se quel periodo là. È un film meraviglioso, raccontato veramente in maniera straordinaria, da andare a vedere rigorosamente in lingua originale. Perché tutti noi scegliamo sempre persone che ci trattano come nullità? Accettiamo l'amore che crediamo di meritare. Che è un po' la filosofia poi del film. Noi siamo infinito. Grazie Boris, appuntamento alla prossima settimana. Grazie a te, alla prossima. Quarta parte significa cinema da vedere in casa, film da recuperare fra l'home video e i passaggi televisivi dei palinsesti sempre più ricchi del digitale terrestre. Proprio su questi ci concentriamo con gli amici della settimanale Fil TV. Ci colleghiamo con la redazione, dove c'è il ormai anche nostro Giulio San Giorgio. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Mentre Giulio nelle sale cinematografiche continua a imperversare con buoni risultati Django Unchained di Quentin Tarantino, in televisione arriva il Django, diciamo così, originale, quello di Corbucci, che è stata la matrice del nuovo lavoro di Tarantino. Sì, Django, lunedì 18 su Rai Movie alle 21:15, uno dei capisaldi del western all'italiana, che qualcuno ha definito come il primo western iperviolento della storia del cinema. Sicuramente la sterzata violenta impressa al genere premiò il film al botteghino, non solo in Italia, e fece del protagonista un'autentica icona dello spaghetti western, tanto che il suo nome comparve nei titoli di una moltitudine di altre pellicole, senza contare poi l'omaggio fatto al film di Takashi Miike, Sukiyaki Western Django, e poi il cripto remake da record di Tarantino attualmente nelle sale, Django Unchained. Inevitabile per Corbucci e Franco Nero, autore il primo e il secondo attore del film, il riferimento all'accoppiata Sergio Leone e Clint Eastwood, esplosa 2 anni prima in Per un pugno di dollari, poi replicata all'infinito da altri fino allo sfinimento. E allora non perdetevi questo Django lunedì 18 febbraio alle 21.15 in prima serata su Rai Movie. E per quanto concerne invece la seconda scelta, il secondo titolo scelto dai palinsesti, abbiamo voluto consigliarvi, se non l'avete mai visto, o consigliarvi di rivedere Per favore non mordermi sul collo. Sì, Per favore non mordermi sul collo, su Iris alle 21.10 di giovedì 21. È l'incursione di Polanski nel mondo di Dracula and Company, è memorabile per sapienza cinematografica tra citazioni di horror e commedia. Ne esce un acutissimo prodotto meticcio tra seriosità e parodia, omaggio e dissacrazione del genere vampiresco e della tradizione gotica. È la prima commedia, il primo film a alto budget, specificatamente americano, per Polanski. In questa occasione anche di fronte alla macchina da presa insieme alla sua compagna Sharon Tate, 3 anni prima della tragica morte dell'attrice ad opera di Charles Manson. Allora ricordiamo l'appuntamento, giovedì 21 febbraio, sempre alle 21.10 su Iris, Per favore non mordermi sul collo. Grazie a Giulio San Giorgio e alla redazione di Film TV. Ciao Franco, alla prossima settimana con le nostre segnalazioni. E allora andiamo a giocare ancora insieme la terza e ultima traccia del game di oggi. Sei d'esempio per tutti noi. Amen. A chi tocca ora? Io credo di non aver mai mangiato un pesce. Oh, è fantastico! I miei complimenti! E beh, qui mancava solo di farvi vedere la locandina del film. La rosa purpurea @radio24.it. Di che film si tratta? Provate a vincere il Blu-ray di questo film per il più bravo e veloce degli ascoltatori del sabato e della domenica. E settimana prossima vi racconteremo come è andata a finire questo, invece, il game di 7 giorni fa. Io non diventerò una spia. Se noi avessimo avuto un agente invisibile nel 1939, forse non ci sarebbe stata la Seconda Guerra Mondiale. Che stai dicendo? Che io avrei ammazzato Hitler per voi? E allora, non era facile. Settimana scorsa non era assolutamente facile. Si trattava delle avventure di un uomo invisibile. Lo hanno indovinato per primi e riceveranno il Blu-ray, l'edizione in Blu-ray di questo film, Piero Attilio Stea di Cuneo e Delgado Perez Araceli. Qui abbiamo una utenza internazionale, ovviamente, di Brescia. Allora, le note della nostra sigla ci dicono che siamo alla fine, non mi resta che ricordarvi la nostra pagina Facebook, come sempre, sempre più numerosi, unitevi alla Rosa Purpurea Radio 24 su Facebook, cliccate mi piace, entrate nella nostra comunità, tutti i giorni novità, classifiche, puntate in podcast e soprattutto i vostri pareri sui film ai quali noi cerchiamo di rispondere, a volte polemizzando, a volte sposando, ma insomma il bello della comunità è proprio quello. Grazie a Giorgio De Luca che ci ha seguito in redazione, a Fabio Cantadori che è qui in regia. L'appuntamento con la Rosa Purpurea alla prossima settimana.